Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Era il triplo di una normale moka da caffè e la sua forma non era proprio quella che tutti conosciamo. Sembrava una lanterna con in alto un vetro a forma di cupola da cui si poteva vedere quando il caffè, borbottando, saliva, spinto dall'acqua che bolliva. Sono Bruno, abito a Casazza, in provincia di Bergamo, di professione faccio il fruttivendolo ambulante, ho un bellissimo cane, ho un hobby smisurato per la moto e nella vita ho fatto tantissime cose che casomai vi racconterò. Mia zia, o meglio non mia zia Mina, che è viva e vegeta e lotta insieme a noi, ma avevo una zia che era la zia di mio padre in realtà, quindi si dice esattamente prozia. Una prozia che era suora di clausura, era in questo convento a Pinerolo, che è appena prima delle colline fuori Torino, e ogni tanto andavamo a trovarla con tutta la famiglia. Eravamo piccoli io e mia sorella, e quando arrivavamo al convento lei stava alla porta, stava all'ingresso, proprio era il suo lavoro, stava lì ad aspettare le persone che entravano. Dopodiché ci spostavamo in un grande salone, lei era sempre grata, quindi la toccavamo insomma attraverso le grate d'acciaio, e a un certo punto arrivava la madre superiora, e ricordo che io della madre superiore, di questa donnona enorme che arrivava e ci benediva tutti quanti, era che a un certo punto faceva un caffè, ci diceva volete il caffè? E tutti dicevamo sì grazie, come no, il buon caffè del convento. E dopo un po' arrivava con questo caffè che metteva nella ruota, la ruotona in legno che girava e arrivava da noi. Io avrò avuto 8 anni, io non bevo il caffè, ma quello è il caffè più buono che io mi ricordi. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e in diretta da Cibus, che per l'esattezza è il Salone Internazionale dell'Alimentazione, lo dico perché magari non è che tutti lo sappiano, in diretta in studio con me, ma silenziosi come al solito, Paolino Corleoni, Davide Ciocia alla bassa frequenza, giusto? Davide Ciocia alla bassa frequenza, ed Elena Ligio, splendida al marketing, con un nuovo taglio di capelli veramente che vi consiglio di venire a vedere se siete da queste parti, perché merita. Sono le 16 e quasi 10 minuti in punto, lo dico seguendo sempre l'orologio di Davide Ciocia. Davide, c'è un segno della batteria che sta per scaricarsi, te lo dico, mica che quelli di domani non c'hanno l'ora adatta. Oggi noi raccontiamo una storia che ha a che fare con il cibo, perché sapete che ci sarà l'Expo tra un anno, perché siamo a Cibus ovviamente, ma dal momento che ci hanno infilato nel padiglione del beverage, sostanzialmente beveroni, per cosa sta beverage? Non proprio per beveroni, sta per bevande, grazie Paolino. Visto che si parla di bevande e poco distante tra l'altro c'è un stand che parla di caffè, noi oggi raccontiamo la storia di Bruno, che parla sì di un caffè indimenticabile, parla però in realtà di una moka che lui ha, insomma, ricorda per un motivo molto molto preciso e molto tenero anche, se vogliamo, e più tardi ve lo racconterò meglio. 349-238-6666 è il numero per mandare sms in diretta come al solito, anche se siamo a Parma, anche se siamo a Cibus, altrimenti voi siete qui, Radio 24 è il profilo Facebook, dove a proposito di caffè indimenticabile già hanno scritto Antonio, il primo caffè dopo un mese in Argentina, non mi è mai piaciuto così tanto. Elisa, quello preso insieme ai miei nonni in tre con una sola tazza, e il nonno che mi diceva dai cocca, ciapa una bucada, che in italiano significa dai piccola, bevitene un sorso. Bucada non è proprio sorso, però lo traduciamo così. 349-238-6666. E poi il messaggio di Giuseppe, che parla di caffè, del caffè più buono, del caffè che non dimenticherete mai. Un caffè indimenticabile, il primo caffè turco che ho assaporato l'anno scorso a Cipro, in una calda mattina di luglio, al bar di un campus universitario. In una veranda semideserta, nell'attesa che i granelli si depositassero sul fondo della tazzina, ho respirato a lungo il suo profumo misto all'odore dell'estate mediterranea, fatto di sterpaglie bruciate dal sole e terreni polverosi. Non c'era rischio che si raffreddasse. L'ho sorseggiato lentamente, lasciandomi invadere da un meraviglioso senso di pigrizia. E anche se siamo alla fiera di Parma, Giuseppe ci ha portato in un'isola del Mediterraneo riscaldata dal sole e soprattutto dal profumo di quel caffè lì. 349-238-6666. Noi ogni giorno raccontiamo una storia, lo facciamo in base alla storia che ci mandate, noi non inventiamo nulla, voi avete voglia di scrivere una cosa che vi sta vicina, che vi riguarda in qualche modo, noi la pigliamo e ci facciamo una puntata. Voi siete qui, chiocciolaradio24.it è sempre l'indirizzo per mandarci le vostre storie, e oggi raccontiamo la storia di Bruno, che parla di una bevanda, parla di un alimento, in realtà le bevande sono alimenti, credo. Come no? Certo, hanno delle calorie, ciocia, quindi giusto Quindi, visto che parliamo di cibo, oggi, visto che siamo in un ambiente che ha a che fare con il cibo, siamo a Cibus dal Salone Internazionale dell'Alimentazione a Parma, noi oggi raccontiamo la storia di Bruno, che parla di un caffè e parla di una caffettiera molto speciale. Siamo nel 1962 a Niederlands, in Svizzera, nel canton Argovia, Svizzera tedesca. I miei genitori erano migrati dalla provincia di Bergamo in cerca di fortuna, appunto a Niederlands, un bellissimo paesino a 20 km da Aarau. La loro giornata cominciava la mattina alle 7 e finiva la sera alle 18, ma a volte si protraeva fino a tarda sera. La mia giornata iniziava allo stesso orario. La mamma mi vestiva, poi si preparava il caffè. Ed era il momento che aspettavo con piacere, perché la mamma mi permetteva di partecipare alla messa in uso di quella stranissima caffettiera. Mi ricordavo le dimensioni. Era il triplo di una normale mocca da caffè. La sua forma non era proprio quella che tutti conosciamo. Sembrava una specie di lanterna, con in alto un vetro a forma di cupola, da cui si poteva vedere quando il caffè, borbottando, saliva, spinto dall'acqua che bolliva. La mocca è una cosa in alluminio, c'è un tubo che va a pescare acqua, c'è un filtro per il caffè molto più grosso del filtro normale, e poi c'è una specie di cupola di vetro, no? Che praticamente quando l'acqua va in ebollizione spinge sul caffè dal filtro e vedi il caffè che poi ritorna dentro e si mischia con l'acqua, per cui fai una mocca di 2 litri di caffè. È un moccone simpaticissimo, fa un caffè veramente molto buono, infatti guai chi me la tocca. La cosa mi affascinava molto, tanto che tutte le mattine era la cosa che preferivo fare, preparare e vedere la moccona in azione. Poi venivo portato dalla signora del piano di sopra, di cui non ricordo il nome, la quale mi teneva fino a quando non passava il pulmino che mi avrebbe portato alla scuola materna, la scuola per i figli degli emigranti italiani. Poi il pomeriggio alle 4 lo stesso pulmino mi riportava a casa, dove la stessa signora mi ospitava fino alle 6, quando mia mamma tornava. Le giornate passavano così, senza novità. Se non che si arriva ad un lunedì di marzo. Mi ricordo il giorno perché la mattina si era fatta colazione con la veglia, una buonissima torta di mele che come abitudine veniva preparata dalla mamma la domenica e si finiva di mangiare il lunedì, appunto. Arrivato con il pulmino della scuola, trovo delle compagne di lavoro della mamma che stanno parlando con la signora del piano di sopra che appunto mi stava aspettando. Per prendermi in braccio, lei mi avvisa che mamma ha avuto un piccolo malessere ed è venuta a casa prima del dovuto. Mi porta in camera, dove trovo mamma distesa sul letto. Mi accoccolo vicino a lei che mi tranquillizza sullo stato di salute. Intanto la signora ci lascia soli, dicendoci di chiamarla in caso di bisogno. Ma io vedo però che mamma è sfinita. Ad un certo punto mi dice con un filo di voce: Bruno, fa una roba, mi prepari per piacere un bel caffè. Avevo 4 anni. La mamma mi chiede di farle un caffè e dico di sì con molto entusiasmo. Mi appresto a fare quello che avevo imparato molto bene proprio grazie agli insegnamenti della mamma, che in quel momento sicuramente non era ben presente, perché la sua richiesta comportava dei rischi oggettivi per un bambino come me, tipo accendere il fornello e tutto il resto. Ma io sapevo fare tutto, ero un bambino molto attento. E quindi comincio la mia responsabilissima impresa. Preparo la moccona, la metto sul fornello, accendo e aspetto che il caffè arrivi sul vetrino. Finalmente il caffè è pronto, prendo la moca per il manico e qui succede il patatrac. La moccona cade. Il caffè sporca tutto il pavimento. La mamma non mi aveva avvisato che il manico, quando il caffè bolliva, era rovente. E io, del resto, lo sapevo preparare, ma non l'avevo mai versato, e per me era stato un imprevisto, quel manico maledetto. Ripulisco bene il pavimento e mi rimetto all'opera. E finalmente, non vi so dire dopo quanto tempo, il caffè è pronto. Ne porto una bella tazzona a mamma, tutto felice. Ma arrivando in camera, trovo mamma che, piangendo, mi dice di avvisare la signora del piano di sopra, perché lei si sente molto male. Ma mamma è una persona squisita, una grande lavoratrice della Cira Svizzera all'epoca, per cui lavoravano in una tintoria e sabato e la domenica andavano a lavorare nel Luna Park nel tirasegno per quadrare la giornata, insomma. Erano dei lavoratori fuori da altri tempi, ecco. Arriva la signora, poi dopo un momento arriva papà, si decide di chiamare l'ambulanza. Ricordo mamma che mi saluta entrando in ospedale con un'espressione molto triste e stanca, ma comunque mi sorrise e io mi tranquillizzai. Mamma aveva contratto la meningite spinale e per 7 lunghi mesi non la rividi. Venni portato in Italia da nonna Cristina e qui finisce la mia storia e anche i ricordi di quel periodo. Sono passati 51 anni da quel giorno. Ora mamma non c'è più, nel settembre del 2000 è venuta a mancare, e poi se ne va anche papà nel 2012 e mi lasciano in eredità la loro bellissima casa. In questi casi si deve sistemare quello che rimane, si tengono le cose che servono e si buttano un po' a malincuore le cose che non servono più, ma che i nonni avevano conservato. E che cosa trovo in soffitta? La caffettiera. È proprio la stranissima moccona di mia mamma. Quindi una mattina con mia moglie prepariamo il caffè. Lo faccio io con entusiasmo, come allora. E come allora mi dimentico del maledetto manico bollente. La moccona cade sul fornello ed è questo fatto che mi fa ricordare tutta l'esatta dinamica di quello che successe in quel lontano pomeriggio in Svizzera. Try to remember the kind of September when life was slow and immagino che sia con sua moglie Bruno nella foto che ci ha mandato e che come al solito trovate sul nostro sito radio24.it, la pagina di Voi Siete Qui, dove trovate credo anche qualche foto che abbiamo scattato qui nello stand a Cibus a Parma. È con sua moglie ed è un autoscatto di quelli fatti abbracciati uno vicino all'altro. Ho la sensazione dai borselli che vedo sulla spalla di lui e di lei che siano, credo, in vacanza. Pronto Bruno? Pronto Matteo, ciao. Come stai? Sto bene, e tu? Io sto benone, ti ringrazio. Dove sei? Sei a casa? Sono a casa, sì. Oggi mi sono preso un paio d'ore per voi. Avevi ragione, perché comunque la foto era... Eravamo di ritorno alle ferie. Hai indovinato. Da dove? Anche perché Bruno, tu sei bello paonazzo in volto. Si vede che hai preso il sole. Stavamo tornando dalla Croazia in quell'anno. Sono 2 anni fa. Senti, ci siamo fatti un autoscatto. E comunque hai indovinato. Bravo, senti Bruno, raccontami del lavoro che tu sei un fruttivendolo, ma o sei un fruttivendolo hai il negozio o vai in giro a fare no, il mercato? No, sono un fruttivendolo ambulante, ho un furgone, ho il mio giro di consegne, ho la mia clientela, insomma, ho un giro abbastanza vasto, ho delle giornate abbastanza lunghe. Lo fai di casa in casa, scusami, oppure hai... Di casa in casa, sì, il mio mestiere è abbastanza antico, praticamente si suona il campanello e... Il nostro è un negozio praticamente che ti trovi sotto casa ed è un servizio che la gente apprezza ancora abbastanza, insomma. Anche se ormai siamo gli ultimi, siamo rimasti in pochi. Ma è una cosa che si fa più nei paesi ancora, Bruno, oppure anche nelle città? Sì, no, si fa. Io ho la mia clientela nei paesi, ovviamente. Sono molto emozionato, scusate. Tranquillo, no, ti dicevo, cioè, vai in giro anche a Bergamo, nelle città oppure solo nei paesi? No, nelle città no, ovviamente nei paesi. Ah, okay. Lavoro vicino a Milano, comunque lavoro vicino a Monza, Biassono. Ma quindi, scusami, in zone molto popolose, insomma, ecco. Hai proprio una mappa con tutti i tuoi clienti e tutti fai i tuoi giri? Sì, un giro fisso, ho un certo numero di clienti che rifornisco ogni settimana, rifornisco anche dei ristoranti, delle scuole materne o anche delle case di riposo. E quindi stamattina... Scarpe, ma mi stanno comode tutte, insomma. Stamattina, ad esempio, dove hai consegnato stamattina, Bruno, che mi incuriosisce stamattina molto? Stamattina ero a Vimercate, ero cominciato a Porto d'Arda, poi sono andato sul Biate, poi mi sono spostato a Vimercate, poi... Dovevo andare in un'altra zona, ma sono venuto a casa perché ho voluto prendermi questo pomeriggio di libertà. Dai, grazie a voi. Bravo. Ma scusami, l'ultima cosa sul lavoro, poi passiamo al racconto. Tu, sì, ovviamente, quindi conosci, parlo dei privati, cioè delle signore o dei signori, sì, li conosci uno a uno, conosci i nomi, conosci le loro usanze. Sì. Per uno come me, qui piace parlare, è proprio la parte bella del lavoro, perché si fanno tantissime amicizie, c'è questo poi rapporto che nasce con i clienti che va un po' al di là dal lavoro medesimo, si diventa Amici, immagino, insomma. Perché insomma gli entra in casa, gli dai quello che mangiano, insomma, quindi infatti sì, è proprio così. C'è la parte, diciamo, appunto bella che mi piace nel mio lavoro, appunto questo contatto con moltissime persone al giorno, ed è molto bello questo, no? Un aspetto che mi piace nel mio lavoro. E si campa ancora bene, Bruno? C'è ancora un buon margine? Ma sì, diciamo che il margine c'è ancora, diciamo che però ovviamente adesso le cose sono un po' cambiate, si parla sempre di questa crisi maledetta, purtroppo un po' il lavoro è calato anche a noi, però comunque io non farei peccato lamentarmi, insomma. Grande, così mi piace. Bruno, veniamo invece alla tua infanzia, ai tuoi genitori. Loro si erano trasferiti in Svizzera da Bergamo, quindi dal nord Italia. Sì, non dal nord Italia. Fra l'altro mia mamma si era trasferita in Svizzera che aveva 16 anni, che per quell'epoca per una donna era una cosa abbastanza... Era prestissimo. Aveva avuto coraggio di fare questa cosa. Poi era ritornata, ha conosciuto mio papà e ha portato anche lui praticamente. E quanto sei rimasto tu? Tu sei praticamente cresciuto. Ma guarda, è una cosa, io praticamente sono venuto via che avevo 22 giorni, poi sono tornato praticamente a 3 anni e poi ho trovato finalmente questa scuola materna che mi poteva tenere, ma è stato un andare e rivenire. Poi la volta buona che potevo fermarmi, purtroppo mamma ha avuto questa meningite e ho dovuto tornare ancora da mia nonna e dalle mie zie che mi hanno... Io sono stato allevato un po' da tutte le mie zie, perché mia mamma aveva 4 sorelle e mi hanno tenute a turno un po' tutte, per cui certo, sono andato... le famiglie, diciamo che c'era la mamma, ma poi le zie erano delle mamme, infatti. Le nonne erano delle mamme, certo. Bruno, poi mia sei nonna, più, anche sei mia più nonna tornato? Stato, diciamo... Scusa, dimmi. No, dimmi tu, insomma tua nonna anche lei ti ha accudito, immagino. Mia nonna è stata un personaggio che è stato molto presente nella mia infanzia, perché praticamente conoscevo quasi più lei che mia madre, diciamo, nei primi anni della mia vita, insomma. Era una storia di allora, insomma, i genitori lavoravano e noi venivamo... Quanti anni hai, Bruno? Quanti anni hai? Adesso ho compiuto 56 anni. Ma la foto ne dimostri 15 di meno, sembri un ragazzino, Bruno. No, vabbè, adesso gli dimostro i miei anni. Forse lì in ferie ero un po' più rilassato, magari. Ecco perché, Bruno, ti dimostro anche anno in meno. E poi devo salutarti. Io non ho ancora mica capito bene com'è sta mocca, però, esattamente. Me la ridescrivi in 20 secondi? Ma la mocca, guarda, è fatta come una specie di lanterna, proprio ovalizzata con questo grande filtro, con questo ferro, questa specie di tubo che entra poi nell'acqua, ed è anche abbastanza lungo perché è una mocca che alta quasi un 25-30 centimetri, e praticamente c'è questo vetrino in cima. Quando l'acqua va in ebollizione, ovviamente il caffè viene coperto con un coprifiltro e avvengono questi sbuffi che praticamente il caffè ritorna dentro, miscelato appunto con il caffè, ritorna nell'acqua. Praticamente ti fai un caffè molto... Molcone. Scusa. Ti fai un caffè molto abbondante. Era un caffè comunque che lo si miscela con l'orzo e il caffè normale. Era molto, caffè, molto buono. Certo. Bruno, io ti ringrazio moltissimo per la storia e la chiacchierata. Mi raccomando, appena sappiamo la data del live, noi ti aspettiamo a fine giugno a Milano a vedere lo spettacolo finale del programma. Se posso venire, vengo volentieri. Io vi ringrazio per aver trasmesso la mia storia. Grazie. Figurati, grazie a te. Ciao, un abbraccio anche a te. Ciao, Bruno. 349-238-6666. Ringrazio Lisa che dice che ci becco sempre con le foto, forse perché è andata a vedere la foto di Bruno e della moglie. A proposito di caffè indimenticabili, quello preso alle 4 di un mattino nell'87 a Cerveteri, durante un cambio della guardia, offertomi da un gentilissimo maresciallo. Marco, prima di chiudere da Parma, io vi ricordo che lunedì noi siamo in diretta dal Pirelli Store, che sarebbe Pirelli Flagship Store, per l'esattezza, ce la faccio sempre a dirlo, grazie Elena, di Milano, di Corso Venezia numero 1 a Milano. Raccontiamo storie di calcio e siamo in diretta, potete venire liberamente, è gratuito, vi vedete la puntata, ci facciamo 4 chiacchiere, basta che vi iscriviate attraverso il form che trovate alla nostra pagina. Voi siete qui, Radio 24, l'ho pubblicato anche sul nostro profilo Facebook, quindi ci andate, lo compilate e ci vediamo lunedì alle 4. Io ringrazio tutti quelli che sono qui silenziosi, ringrazio anche Elena Ligios, Davide Cioci ovviamente, Bassa Frequenza, Paolino Corleoni, Margherita Ina da Milano, grazie soprattutto a Bruno, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Marco, vivo a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, e la storia di domani è la mia. La storia parla di una certa disavventura, ma che ricordo con piacere. Questa è la mia storia e io sono qui.